L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale ci occupiamo del Festival dell'Energia, perché torna a Milano la settimana prossima, dal 12 al 14 di maggio. È un festival arcinoto, direi. Comunque ne parliamo approfonditamente tra poco, in modo che tutti possano capire di che si tratta. È promosso da ARIS, Agenzia di Ricerca, Informazione e Società, è organizzato in collaborazione con Greening Marketing Italia, società di consulenza impegnata nella promozione della green economy e nel sostegno all'innovazione tecnologica digitale. E di ARIS e GMI, l'acronimo appunto di Green Marketing Italia, sono i nostri ospiti. Alessandro Beulke, presidente di ARIS Festival dell'Energia, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. E Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club, amministratore di Green Marketing Italia, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Allora, io direi che bisogna necessariamente iniziare a presentare il festival e poi passiamo anche alle novità, perché c'è anche una formula un pochino diversa quest'anno rispetto al passato, che è una formula interessante, moderna. Io ho qualche perplessità a volte sulla rapidità di certi interventi, però sicuramente è un tema che possiamo affrontare nel corso di questa puntata dell'Altro Pianeta. Alessandro Beulke, ci dica un po' una presentazione, diciamo, del festival, come possiamo descriverlo ai nostri ascoltatori? Ma dunque, il festival è, noi l'abbiamo sempre inteso come una grande cornice anche mediatica, dove si svolgono all'interno dibattiti, talk, presentazioni, eccetera, eccetera. Nel senso, siamo portatori sani anche di contenuti alti, perché proprio diciamo, questi contenuti sono portati da massimi esperti nel settore dell'impresa, ricercatori, università, piuttosto che imprese, per l'appunto. Questi sono i relatori del festival. La vera ricchezza del festival sono i relatori, questo l'abbiamo sempre detto. Il festival è nato oramai molti anni fa, siamo alla nona edizione, siamo nati nel 2008 con una prima edizione fatta a Lecce, bellissima città pugliese. Per 3 anni siamo rimasti a Lecce, poi ci siamo spostati, abbiamo risalito lo stivale, una puntata a Roma, un'altra a Firenze con l'allora sindaco Matteo Renzi, e poi ancora siamo approdati a Milano, dove oggi siamo alla terza edizione, quindi una sorta di carovana delle competenze nel settore energetico. Sono passati davvero tantissimi, centinaia e centinaia di relatori, migliaia di persone hanno preso parte ai convegni, ai dibattiti, sia direttamente partecipando nelle varie sedi dove abbiamo svolto questo festival, sia seguendo i dibattiti in streaming, con le trasmissioni televisive, attraverso la stampa, eccetera, eccetera. Quindi siamo molto contenti di essere arrivati alla nona edizione, e dobbiamo aspettarci ovviamente la decima e ancora oltre, e ancora più contenti di cominciare con una collaborazione molto proficua con Green Marketing, con gli amici Francesco Ferrante e Roberto Della Seta, che portano anche loro dei contenuti di grande valore all'interno del Festival dell'Energia. Il Festival dell'Energia non è necessariamente dedicato alle energie rinnovabili, no? Ma parliamo di energie a tutto campo. Parliamo di energie sì, a tutto campo, probabilmente anche superando quel conflitto che tanto si supererà di per sé, diciamo, tra fonti tradizionali e fonti rinnovabili. Sappiamo perfettamente da che parte sta andando il mondo, da che parte sta andando la ricerca, eccetera, eccetera. Noi offriamo un panorama il più laico possibile, il più aperto possibile, diciamo, sulle fonti energetiche, sui temi quali l'approvvigionamento energetico, eccetera, eccetera. Peraltro la cosa che a noi piace moltissimo fare è, per l'appunto, offrire un microfono a chi ha competenze, come dicevo prima. Partiamo per esempio quest'anno dal tema della geopolitica, che è di straordinaria importanza rispetto al tema energetico. Sappiamo perfettamente a che cosa stiamo assistendo di questi tempi, insomma, crisi del petrolio, il picco del petrolio che insomma, raggiunge dei livelli molto bassi, e moltissimi esperti dicono che da questi livelli non ci si muoverà per molto tempo, per mille ragioni, vuoi il rallentamento dovuto alla crisi economica, vuoi lo shale oil americano, eccetera, eccetera. Insomma, che cosa succederà rispetto a questo tema, per non parlare poi della crisi medio orientale, e ancora di più per non parlare di tutto ciò che accade nel bacino mediterraneo e nel nord dell'Africa. Insomma, sono temi di straordinaria importanza al di là del settore economico, energetico o anche ambientale. Anch'essi ovviamente è di grandissima importanza, però la geopolitica si muove moltissimo in linea con Senz'altro, senz'altro, anzi è un tema fondamentale. Dove va l'Italia, Francesco Ferrante, direi a questo punto di chiedere a lei, dove va l'Italia in questo scenario, come si muove? La cosa di cui, diciamo, il festival sarà innervato lungo tutto il suo svolgimento, a partire da questo ragionamento sulla geopolitica fondamentale su cui con cui abbiamo voluto cominciare, e poi dopo nei giorni successivi con l'innovazione e sostenibilità, il punto centrale è proprio, diciamo, quello che sta succedendo nel mondo dell'energia, tutto il mondo dell'energia, sia nei paesi cosiddetti sviluppati, sia in quelli in via di sviluppo, si dice una volta, adesso più che altro emergenti, a cui stiamo assistendo è una vera e propria rivoluzione, perché è vero, come si diceva, che il Festival dell'Energia non è che parlerà soltanto di rinnovabili, ovviamente si deve parlare di tutto, ma è vero, è altrettanto vero che oggi le rinnovabili, contrariamente a quando 10 anni fa Beolk ha avuto questa straordinaria idea di organizzare questo festival, non sono più una nicchia o un'ipotesi futuribile, ma sono una concreta realtà su cui peraltro si concentrano gli investimenti. L'anno scorso sono stati oltre 280 miliardi nel mondo gli investimenti sulle rinnovabili, e per la prima volta è avvenuto il sorpasso degli investimenti nei paesi cosiddetti emergenti, appunto, la Cina, l'India, il Brasile, rispetto agli investimenti che sono fatti da questa parte del mondo, diciamo 150 contro 130 miliardi. Ecco, in questo panorama rivoluzionario che dobbiamo in qualche maniera studiare, approfondire, capire quali sono, diciamo, i tempi che possano consentire una transizione senza disastri, in questo l'Italia è molto contraddittoria, perché da una parte ha alcuni record mondiali, l'8% di fotovoltaico nel mix energetico italiano è un record mondiale, certo. Il 40% circa di elettricità da rinnovabili, grazie anche al contributo dell'idroelettrico che abbiamo sempre avuto, ma grazie soprattutto all'esplosione che c'è stata in questi ultimi anni, questi 10 anni delle nuove rinnovabili, è un altro elemento che ci farebbe pensare che siamo nel pieno, di questa rivoluzione. Certo. E invece in contraddizione c'è il fatto che quegli investimenti di cui parlavo prima in realtà in Italia si sono fermati negli ultimi paio d'anni. L'anno scorso è stato un anno molto difficile per le rinnovabili, e affronteremo anche, cercheremo di capire perché, per esempio, alcune aziende, delle imprese delle rinnovabili italiane, le più solide, siano state in qualche maniera costrette a investire all'estero, a allontanarsi da questo nostro paese e continuare nel loro business, però andare, certo, a investire, certo, all'estero. Tra l'altro abbiamo sentito recentemente Renzi dire abbiamo questa leadership nelle energie rinnovabili, no? Quando è andato a firmare gli accordi di Parigi alle Nazioni Unite, poi dall'altra parte le critiche continue in patria di sono super sostenute, no? Finanziate, c'è un attacco continuo in patria, quando poi all'estero vantiamo queste meraviglie delle nostre aziende. È appunto una discontinuità che non fa assolutamente bene, che confonde anche le idee. Poi sì, c'è una contraddizione da questo punto di vista che va in qualche maniera sciolta, cioè dobbiamo almeno quei 3 giorni a Milano cercheremo di contribuire in questo dibattito nel capire come le norme, i regolamenti, le direttive, tant'è che appunto saranno presenti molti rappresentanti istituzionali del governo e delle autorità, come queste norme debbano in qualche maniera rispecchiare, accompagnare l'innovazione tecnologica che già c'è. Questo è il punto che va un po' avanti, va un po' oltre al dibattito rinnovabili versus fossili o quanto bisogna incentivare l'efficienza energetica. Bisogna capire che siamo oggi nel pieno di una rivoluzione che garantita e permessa dall'innovazione tecnologica, a volte le norme, la legislazione resta troppo indietro rispetto a quell'innovazione possibile. sicuramente ci sarebbe bisogno di un intervento o di un'attenzione continua, perché appunto la rivoluzione fa sì che le cose cambino molto rapidamente e che quello che abbiamo non sia adeguato assolutamente al panorama tecnologico che ci circonda. Come si potrebbe ovviare a questo? Ci vorrebbe, non so, una task force, un qualcuno che ci stia tutto il tempo? Quello non sarebbe male. Non sarebbe male anche avere un piano di lungo termine, che anche questo ci manca. Ecco, comunque. Quello è un altro punto essenziale. Io credo che se si voglia fare davvero politica industriale, davvero rilanciare l'economia e fornire occupazione, un punto essenziale sia avere una strategia energetica. Nel nostro paese l'ultimo tentativo abbozzo di strategia energetica è stata fatta dal governo Monti, ministro Passera, nel 2012. Le accelerazioni sono tali che quel documento, che forse non era particolarmente innovativo, ma comunque oggi è sicuramente superato dagli eventi e dagli accadimenti, avrebbe bisogno di un intervento notevole. Mi auguro che, diciamo, anche la firma dell'accordo di Parigi serva in qualche maniera a far capire che serve una nuova strategia energetica che possa accompagnare queste innovazioni. Sì, perché noi firmiamo volentieri tanti accordi, ma poi dopo ci dimentichiamo che questi accordi vanno trasformati, no? Vanno resi realtà, insomma bisogna avere degli obiettivi, raggiungerli, delle tappe intermedie, no? Perché noi con grande entusiasmo aderiamo spesso come Italia, ma poi sulla trasformazione di quella firma in realtà facciamo un pochino fatica. A questo punto abbiamo una piccola pausa e ci ritroviamo tra pochissimo, sempre parliamo di Festival dell'Energia. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando del Festival dell'Energia che arriverà a Milano dal 12 al 14 di maggio. I nostri ospiti sono Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club e amministratore di Green in Marketing Italia, GMI, e Alessandro Beulke, presidente di Aris Festival dell'Energia. A questo punto, Beulke, io vorrei andare su quella novità che voi introducete in questo Festival del Public Hearing. Di che si tratta? Come volete sviluppare questa parte che dunque sarà esattamente, così lo possiamo dire a chi vuole seguirlo, sabato? È di sabato? No, venerdì. No. Venerdì. Ecco. Sarà venerdì alle ore 17. La pagina sbagliata del programma stavo guardando. Venerdì 13 maggio alle ore 17. Benissimo, come dovrebbe essere una serie di piccoli flash molto veloci, vero? Dovrebbero sì. Essere... Ma dunque, ci è venuto in mente di portare al Festival dell'Energia e di cambiarlo, poi di anno in anno è sempre cambiato un pochettino, la formula rimane quella delle grandi discussioni, dei grandi dibattiti, che siano concreti ovviamente, che non siano solo parole, ospitate all'interno del Festival. Quest'anno più che mai, proprio per i discorsi che faceva prima Francesco e insomma per le cose che ci dicevamo, ci sembra molto, molto utile poter offrire al decisore pubblico delle informazioni su dove sta andando l'energia, al di là di ciò che può pensare l'istituzione o può pensare la politica. Lo dico in maniera molto, molto netta, noi abbiamo avuto poco tempo fa un referendum, quindi il cittadino deve essere informato per esprimere un voto, un referendum che, ma poi a mio parere, che conta poco in questa sede, non era neanche così, diciamo, dirimente la questione, l'ho visto non particolarmente utile questo tipo di referendum, ma la cosa più importante da dire è che in realtà nello stesso giorno, paradossalmente, mentre si pensava di sciogliere chissà quale dubbio in Italia, in Qatar si affrontavano le stesse questioni, ma di ben altra portata. In Qatar, a Doha, c'è stato un incontro proprio lo stesso giorno del referendum tra tutti i membri dell'OPEC, cioè sì. Membri dell'OPEC insieme ad altri, Messico, Russia e altre nazioni ancora, per capire che cosa fare sul prezzo del petrolio. Questo meeting, che poi si è risolto con uno di fatto, solamente all'annuncio ha dato, come dire, ha toccato il prezzo del barile, portandolo molto più in alto di quello che è stato negli ultimi anni. Poi ovviamente alla notizia del fallimento del meeting il prezzo è tornato al solito livello. Questo per dire di quanto straordinariamente importante era questo in questo momento. Perché il public hearing? È proprio per portare dei contenuti che a volte la politica non intercetta, che le istituzioni, anche le più competenti, non intercettano, sono, per portarli nello stesso luogo. Quindi noi che cosa facciamo? Organizziamo questo pubblico ascolto in cui metteremo il decisore pubblico non a parlare e a presentare, ma ad ascoltare le esperienze di imprese, di ricercatori, università, accademia, eccetera, eccetera, start-up e dicendo, perché ci sono moltissime cose che stanno accadendo. Si parlava prima di strategia energetica nazionale, sono assolutamente d'accordo, sono come dire anche d'accordo nel dire che una strategia energetica nazionale dovrebbe essere prima di tutto modulare e secondo ordine flessibile, perché la tecnica e la tecnologia non aspetta la decisione politica ma fa passi da gigante per conto proprio. Pensiamo solamente a quello che sta accadendo in Africa, che è un continente sul quale peraltro l'Italia ha un certo interesse, ma al di là delle riserve di gas e petrolio ingenti che ci sono, per carità, però l'Africa rappresenta una straordinaria opportunità. Noi dobbiamo ricordare innanzitutto che è un luogo dove ci sono delle crescite di PIL che la Cina quasi si sogna, nel senso dal 3% di crescita dello Zimbabwe, per dire, piuttosto che Ghana, Costa d'Avorio, Etiopia, arrivando anche al 7-8%. E poi l'Africa è anche il luogo dove maggiormente si concentra il cosiddetto fenomeno dell'energy divide, cioè dell'accesso all'energia. Bene, in Africa probabilmente ci sarà un salto tecnologico, così come c'è stato nelle telecomunicazioni, dove l'infrastruttura di rete non è stata costruita perché si è passati direttamente alla telefonia cellulare. La stessa cosa potrebbe accadere, e anche queste esperienze vorremmo sentire, sul fronte tecnologico e energetico. Sì, certo, è quello che ci si augura oggi, anche che accada, no? Perché quando si è con la COP21, proprio questo, aiutiamo a fare il salto, quindi a non passare attraverso le fonti inquinanti, ma andare direttamente oltre. Questo vuol dire che i paesi, anche come l'Italia, non possono rappresentare delle autentiche eccellenze, anche se non abbiamo riserve minerarie particolari, perché possiamo produrre intelligenza e produrre innovazione. Pensiamo solamente alle server farm americane, alla Silicon Valley, che sono alimentate da celle combustibili, centrali a celle combustibili alimentate dal syngas, il gas sintetico derivato dalla combustione dei rifiuti, o anzi dalla gassificazione dei rifiuti. Ecco, queste sono delle nuove frontiere che sono in realtà tecnologicamente già pronte, ma dal punto di vista, diciamo, della normativa siamo molto indietro. Quindi l'idea qui, adesso purtroppo devo dice, mettervi un po' fretta, perché altrimenti poi non riusciamo a spiegare tutto, ma certo. Quindi l'idea è proprio che una serie di ricercatori esperti, leggo Politecnico di Milano, presidente Archimede Solar Energy, oppure insomma di tutti, no? Di tutto il panorama, esatto, dell'energia, presentino in 5 minuti? In 4 minuti. 4 minuti sono, addirittura. Che non sono pochi, a dire la verità. Non sono pochi, ma non sono neanche tanti per spiegare questo tipo di cose, perché noi ad esempio ne stiamo già utilizzando 16, 18 sì, di questa conversazione, quindi chiaramente non sono né pochi né tanti, diciamo, ci si può stare, ma non è facilissimo. Devono presentare le loro riflessioni, istanze a seconda, esatto, a, non so, Ministero dello Sviluppo Economico, ci sarà un rappresentante, al Presidente per, esatto, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas Sistema Idrico e così via. Questa è il... Certo, esattamente questa è l'idea. È chiaro che non, la cosa non si ferma qui, nel senso che il public hearing è, se vogliamo, una titolazione, cioè mettiamo sul tavolo una serie di temi, di stanze, di messaggi, dopodiché si dovrà fare un lavoro successivo che sta molto anche sulle spalle di chi ascolta, cioè dire che il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Authority e via dicendo, dovranno fare qualcosa con questi messaggi, queste stanze che ascolteranno, insomma. Quindi la vostra idea poi magari è di riprenderli più avanti, ricontattarli, non lo so, di proseguire, no, insomma. La nostra idea è quella di proseguire il public hearing, soprattutto andando a evidenziare quelle che sono state, diciamo, le migliori pratiche ascoltate, le migliori soluzioni, le migliori istanze ascoltate, e dopodiché il legislatore dovrà fare il suo mestiere. Però sempre meglio dare il massimo dei contenuti, seppur in 4 minuti l'uno, piuttosto che lasciare, diciamo, i messaggi liberi nell'aria. No, questo quindi è senza dubbio. Organizziamo questo tavolo, dopodiché sarà anche cura del decisore pubblico farne poi materia di azione politica. Senz'altro. E il Kyoto Club in questo ovviamente può aiutare, no? Perché vedo che sedete da una parte e dall'altra, tra l'altro, perché sì, avete un doppio ruolo a questo punto. Da una parte lo organizzate un po' il public hearing, sì, e dall'altra lo subite, nel senso che vi vengono dette anche a voi delle cose. Ci sarà Gianni Silvestrini. Sì, l'ambizione è quella di riuscire a far sì che, diciamo, i decisori politici stiano ad ascoltare e capiscono. È ambizione molto forte, perché avendo fatto io anche quel mestiere so che è difficile, diciamo, costringerli certo ad ascoltare piuttosto che a intervenire. Però noi vorremmo che davvero ascoltassero quello che si sta muovendo nella società, nelle imprese, nella ricerca. Il Kyoto Club ha un po' quella funzione di tramite, nel senso, essendo un'associazione di imprese e di amministrazioni locali che hanno scommesso sull'innovazione, sulla riduzione delle emissioni come chance, diciamo, anche di sviluppo economico, vuole essere un po' il tramite fra questi due mondi, vuole provare a essere il tramite fra questi due mondi. Io credo che sia un'esperienza interessante, che certo può vivere meglio se la pensiamo come un inizio che poi continua, come se il Festival dell'Energia ambisse a diventare una iniziativa che dura tutto l'anno, non soltanto quei tre giorni in cui ci vediamo a Milano dal 12 al 14 maggio. È ambizioso, però io credo che sia anche il contributo migliore che possiamo dare a quello che, riprendendo un po' che diceva Beulk sul referendum, comunque uno la voglia pensare, io credo che sia stata una straordinaria cosa positiva che almeno per qualche settimana, seppur in qualche maniera inquinato da un dibattito politico che poi percorreva i partiti e gli schieramenti, ma finalmente si è messa al centro del dibattito pubblico le questioni energetiche, poi ognuno la pensava in maniera diversa, diciamo, però almeno finalmente si è discusso di questo un po' fuori dalle solite stanze e si è forse fatto capire ai cittadini che le scelte energetiche sono delle scelte che coinvolgono loro nella loro vita quotidiana molto più di quanto si pensi normalmente. Allora, io ricordo, ma l'avete già detto voi, ma lo ripetiamo che male non fa, dal 12 al 14 di maggio, Festival dell'Energia a Milano, c'è ovviamente tutto il programma su internet, la parte del public hearing di cui abbiamo detto, e mi correggo, sarà venerdì tra le 17 e le 19, quindi insomma chi vuole partecipare anche per farsi un'idea, no, su tutto questo mondo, sicuramente può farlo e avere appunto le ultime dal mondo della ricerca e dell'impresa. Quindi non restare indietro a quello che è stato. Io ringrazio i nostri ospiti, ricordo Alessandro Beulk e Francesco Ferrante. A tutti voi un buon ascolto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.